A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo torniamo sul green del grande golf italiano che quest'anno continua a mietere successo. Abbiamo raccontato le gesta dei fratelli Molinari, i sogni olimpici di Matteo Manassero, il baby prodigio del nostro golf. E beh, oggi però c'è da scoprire tutta l'altra metà di questo green, che è la metà in rosa, la metà al femminile. E allora, chi meglio di Diana Luna per introdurci proprio al golf in gonnella? Benvenuta Diana a bordo campo. Grazie, grazie mille, buongiorno. Allora, Diana Luna è la nostra top player romana, classe 1982, è la punta di diamante del movimento femminile del golf azzurro. Tra l'altro, Diana, quante siete voi ragazze italiane appassionate di golf? Sul circuito europeo siamo, mi sembra, 6 ragazze, che comunque rispetto a un paese come l'Italia, dove il golf non è ancora uno sport molto popolare, sicuramente è un numero molto alto di giocatrici di buon livello. The Solheim Cup. It's USA versus Europe in the most prestigious team event in women's professional golf. 3 tornei vinti in carriera e soprattutto la convocazione quest'anno per quella Solheim Cup, che è un po' la Davis del golf in femminile, no? Spiegaci un po' di cosa si tratta in particolare di questo torneo in cui voi migliori giocatrici europee affrontate le grandi del continente nordamericano, no? Esattamente, allora praticamente è un torneo, la versione femminile di questo torneo si chiama Solheim Cup, la versione maschile più famosa probabilmente si chiama Ryder Cup, e ci si affronta, siamo 2 squadre, la squadra europea e la squadra americana, composte da 12 giocatrici ognuna, e ogni 2 anni si ripete questa sfida, appunto USA contro Europa, che viene fatta in alternanza, una volta negli Stati Uniti e una volta in Europa. Nel 2009 è stata giocata negli Stati Uniti, vicino a Chicago, e la prossima nel 2011 sarà in Irlanda. È stato veramente per me la realizzazione di un sogno riuscire a far parte della squadra, è stato sempre un mio grandissimo desiderio e un obiettivo che mi ero posta, quindi insomma quando uno raggiunge i propri obiettivi è sempre una cosa bella. Però raccontaci anche come sei arrivata sul green, perché il golf non è esattamente il primo sport che viene in mente pensando a una ragazza che si avvicina all'attività sportiva. I miei genitori giocavano, quindi mi hanno avvicinata loro comunque al golf quando avevo più o meno 10-12 anni, e poi piano piano ho cominciato a fare gare, mi sono appassionata e ho continuato. Cosa sta cambiando per il golf in Italia? Dicevamo un deficit di popolarità che però state colmando rapidamente, come testimoniano anche i numeri degli iscritti alla federazione, siamo intorno ai 300.000 praticanti. Difatti, io spero che comunque grazie anche agli ottimi risultati che stiamo ottenendo nel settore agonistico e soprattutto professionistico, spero che comunque questo numero continuerà a crescere, perché è veramente uno sport che merita di essere conosciuto nel nostro paese, e anche devo dire che la federazione sta facendo tantissimo, Franco Chimenti e la sua politica di rendere il golf più accessibile per tutti con il tesseramento libero, che consiste nel fatto che non si debba più necessariamente essere soci di un circolo privato costoso per poter giocare a golf. Credo che sia stato un grandissimo passo avanti per rendere il golf uno sport più popolare. Ecco, le difficoltà che questo sport incontra alle nostre latitudini sono già da un bel pezzo superate nel mondo anglosassone, no? Dove il golf è disciplina a tutti gli effetti, poi tra l'altro anche con i recenti riconoscimenti da parte del CIO, ma fra poco ne parliamo, perché so che in fondo al tuo cuore c'è anche un sogno olimpico, ma fra poco ci arriviamo. Perché questa differenza? Perché questo sport fa così fatica ad affermarsi dalle nostre parti, mentre invece nel mondo anglosassone gli viene riconosciuta la dignità che merita? Ma in realtà non so, io credo che in Italia sia sempre stato considerato forse anche a causa delle politiche molto ristrette che sono state fatte negli anni passati, sia sempre stato considerato uno sport di elite, uno sport per persone ricche, insomma, e benestanti, e in realtà non è più così, insomma. Quindi si deve un po' perdere questa etichetta che ci è stata data nel corso degli anni, ma credo che ci stiamo riuscendo molto bene, spero che i numeri continueranno a dimostrarlo. Proprio per sfatare questo mito, dacci qua un ordine di grandezza, chiaramente, ma se un bambino volesse cominciare a disimpegnarsi tra mazza, buche e palline, un corso base quanto viene a costare? Un adulto con 70 euro, che mi pare sia il costo della tessera federale, e un'attrezzatura, che quella può costare anche, insomma, intorno ai 200 euro, si riesce a ottenere una sacca completa, può andare in tutti i circoli, in campo pubblici e giocare. Quindi questa è comunque una cosa che assolutamente costa meno di una qualunque palestra o di un qualunque o di un qualunque altro sport, insomma. Pensiamo, non lo so, allo sci, che per esempio non è affatto considerato uno sport di elite e che pure ha dei costi incredibili rispetto anche al tempo che può essere praticato, insomma. Poi nel preventivo bisogna anche mettere qualche finestra, qualche vetro rotto, perché i primi colpi sono tutti da studiare, insomma. Ah beh, quello sicuramente. Quello sicuramente. Ecco Diana, invece, parlando del golf ad alto livello, ad altissimo livello, dall'ultimo congresso del Comitato Olimpico Internazionale a Copenaghen nello scorso ottobre, quello che per capirci ha assegnato a sorpresa a Rio de Janeiro le Olimpiadi del 2016, è arrivata un'investitura ufficiale proprio per il tuo sport, per il movimento golfistico internazionale. Da Rio 2016 il golf tornerà a far parte del programma olimpico. Immagino che la notte qualche sogno a cinque cerchi già ti passi per la mente, eh? Sicuramente. Beh, io penso che le Olimpiadi siano il sogno di ogni sportivo, a prescindere dalla disciplina praticata, quindi sicuramente è anche uno dei miei sogni, e spero di riuscire a realizzarlo, così come ho fatto con la Solheim Cup. So che tra l'altro ti intervistiamo, ti ospitiamo qui a Bordo Campo in un momento in cui c'è un altro grandissimo sogno in arrivo, c'è un nuovo arrivo in famiglia. Sì, c'è una bimba che arriverà, che dovrebbe arrivare a maggio, e quindi io e mio marito siamo felicissimi, e questo qui sicuramente per il momento è la mia priorità. Assolutamente, un oro olimpico che già è vinto in questo senso. Ti chiedo però, l'esperienza della maternità come pensi può cambiare la tua vita da professionista del green? Beh, sicuramente è una cosa che cambierà radicalmente la mia vita in generale, e quindi di conseguenza la mia vita golfistica dovrà subire qualche adattamento alla nuova arrivata. Però credo che ci sono tantissimi esempi di tantissime giocatrici che sono mamme e che sono rimaste, e anzi alcune addirittura hanno giocato ancora meglio dopo aver avuto figli, insomma. Penso a Katrina Matthew, che l'anno scorso ha vinto il British Open, che è forse la gara più importante che ci sia, dopo 2 mesi e mezzo nella nascita del suo ultimo figlio, insomma. Quindi ci sono degli illustri precedenti. Insomma, ci sono colleghe all'altezza a cui chiedere consigli, no? Assolutamente sì, e spero, insomma, di riuscire ad adattarmi presto anch'io a questa nuova condizione di mamma golfista. Hey, it's Tiger. Ancora insieme qui a Bordo Campo con Diana Luna per parlare di golf. Ti chiedo, Diana, in questi giorni, in questi mesi si è parlato molto di golf, soprattutto per le vicissitudini private di Tiger Woods. Ecco, credi che queste vicissitudini possano avere anche una conseguenza sulla popolarità e sull'immagine del golf stesso, visto che Woods è stato proprio per questo sport il più grande ambasciatore al mondo? Sono molto addolorata dal fatto che comunque si sia rovinata l'immagine di quello che era uno sportivo perfetto sotto tutti i punti di vista, e comunque uno sportivo che ha fatto veramente tantissimo per il golf e che l'ha reso popolare come non mai. Quindi chiaramente questa cosa qua mi lascia molto dispiaciuta. Io spero che lui si rimetta presto e che torni presto sui campi, perché insomma c'è ancora bisogno di lui, il golf ha ancora sicuramente bisogno di un personaggio così forte. La simbiosi tra Woods e il golf è talmente forte che anche lo sport in qualche modo non può non essere intaccato da questa vicenda. Ma non credo che sia questo. Il discorso è che Tiger Woods quando gioca è uno spettacolo e fa veramente spettacolo, quindi chiaramente senza i tornei, quando lui non gioca, rischiano di perdere un po' di appeal. Perciò appunto spero che ci sia un erede presto, che comunque lui possa rimettersi da questa sua situazione insomma molto delicata. Chiaramente non condivido quelle che sono state le sue scelte, spero che la sua immagine non ne risenta più di tanto e che soprattutto ritorni a fare tanto per il golf così come ha fatto negli ultimi anni. Immagino che da golfista ti troverai anche di fronte spesso il dibattito con chi è appassionato di questo sport, magari non lo è e dice: ma questo qua, ma che sport è? Ma questo è uno sport per vecchietti e che in cerca di passatempi all'aria aperta. La risposta? Ma questa cosa mi fa sempre molto ridere, perché tutte le persone che poi sono venute a seguire dei tornei, anche solo a camminare sul lato del campo, a seguire o a vedere, dopo 18 buche erano stremate. E quindi questa cosa qua mi fa sempre molto ridere, perché ogni volta che poi qualcuno effettivamente assiste, viene a vedere e gioca, poi è stanchissimo, quindi dice: ma io pensavo che fosse una cosa per vecchi, che non fosse per niente faticosa, e invece la gente è stanchissima, quindi evidentemente così tanto semplice e rilassante non è. Parliamo di fascino, inevitabilmente anche l'immagine di voi golfiste veicola attraverso quello che è la vostra bellezza, la vostra capacità anche di rappresentare l'appeal, no, di questo sport. Credi che questo sia in qualche modo un limite dal punto di vista della donna, cioè sia una forma in qualche modo di diminuzione delle sue qualità specificatamente sportive? La bellezza non guasta, casomai aiuta, l'importante è che poi ci sia la sostanza, no? Nelle cose, quindi il fatto magari di avere un'immagine forte, una bella immagine e tutto, può soltanto aiutare a rendere il tutto più interessante e gradevole. Poi nel tempo si vede se c'è anche la sostanza, insomma. Io sono contenta di aver dimostrato che c'è stata molta sostanza per quanto mi riguarda. 2009 è stato l'anno in rosa dello sport italiano. Credi che questa sarà la tendenza che si confermerà anche in futuro? Cioè uno sport italiano sempre più in rosa? Spero di sì. Io credo che noi donne abbiamo molta voglia di riscattarci dal fatto che in Italia si parli solo di calcio, e di calcio maschile in particolare, quindi credo che spero che continueremo a dimostrare la nostra bravura in tutte le discipline. Allora Diana, in bocca al lupo per i tuoi prossimi tornei e soprattutto per l'imminente arrivo della tua bambina, e grazie per essere stata ospite di A Bordo Campo. Crepi il lupo, grazie a voi. Allora grazie a Diana Luna per essere stata nostra ospite qui a Bordo Campo. A Bordo Campo di Dario Ricci. Continuiamo a parlare di sport al femminile a bordo campo dopo l'incontro che abbiamo avuto con la grande campionessa del golf azzurro Diana Luna. Ebbene, ancora donne protagoniste, ci spostiamo però sulla neve, tempo di Olimpiadi invernali, Vancouver è iniziata già, i grandi giochi olimpici e le prime medaglie sono state assegnate, spettacolo, emozioni, ma c'è anche chi purtroppo queste Olimpiadi deve guardarle in TV pur avendo a lungo sognato di essere protagonista sulle nevi canadesi. Faccio riferimento alla nazionale azzurra di salto dal trampolino con gli sci al femminile. Tutte le azzurre, così come tutte le saltatrici al mondo, sono di fatto escluse dai giochi di Vancouver. Cerchiamo oggi di capire il perché di questa esclusione che rimanda l'appuntamento olimpico per questa disciplina, che pure è presente nel programma maschile, a Sochi 2014 per quanto riguarda invece le donne. Ci ha raggiunto in diretta telefonica Elena Rungaldier, 19 anni, oro ai mondiali juniores di Interzarter in Germania, proprio nel salto dal trampolino con gli sci. Beh, Elena, immagino una grande delusione a dover guardare le Olimpiadi solamente in TV. Sì, di sicuro è una delusione, perché noi speravamo già 4 anni fa che poi diventasse olimpico, però poi, dato che non ci ha mai detto se sì o no, non è che ci aspettavamo il sì, speravamo che diventasse olimpico, però adesso così si vive lo stesso. Bisogna anche dire che c'è stata anche una lunga battaglia legale, no? Per far sì che questa disciplina al femminile potesse entrare nei giochi olimpici. Addirittura c'è stata una delegazione delle saltatrici capitanate dalla campionessa canadese Lindsay Vann, dalla prima campionessa mondiale ufficiale, che ha fatto addirittura ricorso alla Corte Suprema canadese per vedersi riconosciuto questo diritto. La Corte Suprema ha dato sì ragione alle atlete, ma ha anche detto che al Comitato Olimpico Internazionale non si può imporre di inserire una disciplina nel programma olimpico. Insomma, non è una battaglia che si combatte solamente a colpi di salti e sui trampolini, ma siete arrivate anche a far valere i vostri diritti in sede legale, diciamo così. Sì, le americane e le canadese sì, hanno provato a far sì che anche salto femminile diventasse olimpico. Purtroppo non è adatta, però è così, ci dispiace a tutte. Tra l'altro voi avete già esordito però in una competizione ufficiale ad alto livello agli ultimi mondiali di Liberec e direi anche con grande successo di pubblico, no? Sì, è stato bellissimo, perché così hanno aperto le porte per il salto femminile, di sicuro è stato una cosa grandiosa per la storia del salto. Adesso penso che le porte saranno aperte per le prossime Olimpiadi, e lo spero. Ma quali sono le ragioni, secondo te, che hanno portato al mancato inserimento del salto dal trampolino con gli sci al femminile nel programma olimpico? A dire la verità non lo so neanche io, perché le infrastrutture sarebbero le stesse come quelle dei uomini. Non so, siamo anche in 15 nazioni, a dire la verità non si sa esattamente. Potrebbe essere che mancano i 2 mondiali, perché dovrebbero farne 2 prima di far diventare una disciplina olimpica, e noi ne abbiamo avuto solo 1 l'anno scorso. Ecco, ma a livello mondiale quante siete voi ragazze che vi dedicate a questo sport così, così particolare? Perché tante volte si dice, beh, è un movimento poco numeroso, e quindi se è vero che alcune atlete di vertice potrebbero competere ai massimi livelli in tutta sicurezza, magari allargando troppo le maglie c'è il rischio che qualcuna si faccia male. È così? Cioè siete effettivamente poche, oppure quanti siete al mondo? No, non è che siamo poche, siamo una sessantina, però dato che adesso alcune nazioni sanno che non è olimpico, quasi non vanno avanti, non è che si fermano, però era una delusione per tante nazioni, perché per esempio la Norvegia ha tantissime atlete che anche adesso che non fanno ancora Coppa Continentale, che sarebbe la gara a massimo livello femminile, che si stanno allenando. Certo, quindi insomma il fatto di non essere nel programma olimpico ha scoraggiato alcune nazioni a continuare a investire anche sotto il profilo tecnico in questa disciplina. Ti chiedo ancora, tu come sei arrivata a questa passione? Perché oltre a essere magari uno sport che è molto particolare già al maschile, anche al femminile magari è più difficile inserirsi in questo contesto. Come nasce, come è nata la tua passione e come poi sei diventata atleta di vertice? Sì, io ho iniziato a 12 anni, prima facevo fondo e mi piaceva saltare con gli sci da fondo con i maschi, e così un giorno il mio allenatore, che poi era Romet Moroder, che era il mio primo allenatore assieme a Fabian Ebenhor, che è ancora oggi allenatore, mi chiese se volevo provare a praticare questa disciplina nuova in Italia. Ho accettato la richiesta e adesso sono ancora qua, felice di averla scelta. Ti è mai passato per la testa in questo periodo in cui insomma si è dibattuto appunto della possibilità di partecipare ai giochi l'idea che se magari avessi continuato col fondo alle Olimpiadi già ci saresti arrivata? No, non penso proprio. Quindi insomma nessun rimpianto e appuntamento a questo punto speriamo a Sochi 2014, in Russia dovete esserci per forza. Speriamo. Grazie ad Elena Rungaldier per essere stata nostra ospite, quindi grande battaglia legale abbiamo verificato tra queste atlete e il Comitato Olimpico Internazionale per entrare nel programma olimpico già a Vancouver 2010. Il CIO ha detto no e allora toccherà aspettare un altro quadriennio. Intanto a bordo campo è arrivata anche Evelyn Insam, 16 anni, 12esimo posto agli ultimi mondiali. Benvenuta Evelyn, dura vedere i salti degli altri a Vancouver, vero? Sì, è dura vedere come gli altri saltano alle Olimpiadi e noi non possiamo saltare, però pazienza. Dal punto di vista tecnico, quali sono le maggiori differenze tra questa disciplina al maschile e invece la sua interpretazione, il suo sviluppo tecnico al femminile? Ma tra i maschi e le femmine non c'è tanta differenza del salto, forse che i maschi sono più numerosi e anche saltano già più a lungo, e poi sì, questo forse il motivo perché non possiamo partecipare. Credi che qualcuno nel CIO abbia pensato che questo sport a livello spettacolare al femminile potesse essere appunto meno attraente, quindi credi che un ragionamento di questo tipo possa aver influenzato la decisione del Comitato Olimpico Internazionale? Ma secondo me no, perché secondo me anche che forse tecnicamente le donne stanno a saltare anche come gli uomini, però soltanto gli uomini hanno più forza. Nel prossimo quadriennio olimpico cosa deve fare questo sport per affermarsi e conquistare effettivamente questo posto, questo spazio a cinque cerchi mancato in questa occasione a Vancouver? Ma sì, per noi donne resta solo sperare che possiamo partecipare adesso alle prossime Olimpiadi e continuare e provare a saltare il meglio possibile. Grazie a Evelyn Insam, e allora bisognerà rassegnarsi, aspettare altri 4 anni per vedere le nostre saltatrici competere per un podio olimpico nel trampolino. Facciamo un po' il punto su quello che è su quelle che sono state le cause che hanno portato all'esclusione e anche su quella che è la effettiva maturità di questo sport al femminile, le dimensioni del movimento, per capire quello che dobbiamo aspettarci fra 4 anni con Fabian Ebenhof, il direttore tecnico della squadra azzurra. Benvenuto Fabian a bordo campo. Allora, perché non siete a Vancouver con le nostre ragazze e con tutte le altre saltatrici dal trampolino al mondo per giocarvi un oro olimpico? Ma le regole sono abbastanza chiare in questo momento. Il Comitato Olimpico Internazionale chiede al minimo 2 mondiali prima delle prime Olimpiadi. Noi abbiamo avuto già una volta l'anno scorso a Liberec, 2011 abbiamo quelli di Oslo, 2013 quelli a casa in Val di Fiemme. Penso che fino là abbiamo siamo arrivati a ogni criterio che è chiesto dal Comitato Olimpico, e penso fino là arriviamo a Sochi 2014 abbastanza sicuro, perché il Comitato Olimpico ha già segnalato l'apertura, perché il 2012 sono Youth Olympic Winter Games a Innsbruck la prima volta, e lì ci sono già le donne, le giovane, le ragazze giovane. Al di là di queste scadenze pur importanti, il movimento a livello internazionale è pronto? Cioè è un movimento abbastanza ricco in termini di atlete di vertice, soprattutto di atlete ben preparate, perché come abbiamo visto spesso ai giochi, spesso il criterio di rappresentatività porta anche, non so, a estemporanee presenze di sciatori africani nel gigante delle Olimpiadi, con rischi anche per la salute. Ecco, da questo punto di vista invece questo sport è maturo? Penso, secondo me sì, è maturo per partecipare, solo sicuramente nel salto non capiteranno queste cose come nel sci alpino, nel fondo avere le nazioni estremamente fuori dell'ambiente dell'inverno, perché il nostro sport è un po' un rischio per la salute, chiaramente non qualcuno che è veramente fuori dall'inverno della montagna prova quello solo una volta per partecipare alle Olimpiadi, ci vuole bene un po' coraggio e allenamento serio fino a si arriva lì. Allora non è da fare solo per allenarsi un mezz'anno e si salta giù un trampolino grande così. Allora, intanto un grazie alla Nazionale Azzurra Femminile di salto con gli sci dal trampolino, e allora portate pazienza per Vancouver 2010, vi diamo un grosso in bocca al lupo e l'appuntamento a Sochi 2014. Grazie mille anche a voi. E allora rassegniamoci ad aspettare 4 anni per vedere le nostre saltatrici protagoniste alle Olimpiadi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci, così come tutti i programmi di Radio 24, dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento con A Bordo Campo è per domenica prossima, sempre alle 14:30. Un saluto da Dario Ricci.